23 gennaio 1973. Roberto Franceschi. La sera del 23 gennaio 1973, all'Università Bocconi, era stata indetta un'assemblea da diverse realtà legate al movimento studentesco. Una riunione normale e come altre, convocata anzi per continuare un dibattito iniziato pochi giorni prima. In quell'occasione però il rettore decise di vietare l'accesso a tutti quelli che non erano studenti iscritti all'università. Per far rispettare il divieto venne chiamato il reparto Cenere. Studenti e lavoratori avviarono allora una protesta di fronte all'ingresso della Bocconi, cui seguì immediatamente la reazione violenta della polizia. Nel corso delle cariche viene sparato un colpo che raggiunge alla fronte Roberto Franceschi. Franceschi era uno dei leader del movimento studentesco alla Bocconi, ragazzo stimato da molti, non solo della sua parte politica, per l'intelligenza e l'attivismo politico critico e consapevole. È morto a 21 anni. Sebbene vari processi abbiano accertato la responsabilità della polizia, nessuno è stato condannato per il suo omicidio.